Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, il nostro è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno caro ascoltatore di Radio 24, qui da Lega, la compagnia dei conti della Belva, per tenervi appunto un po' arrabbiati e pressati in questo inizio del fine settimana, in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Quindi vi salutiamo innanzitutto Oscar Giannino, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e caro Alberto. Ci sei caro Alberto a telefono? Certo che ci sono, sono qua. Ecco. In realtà caro Alberto, diciamo la verità, tu sei andato oggi al Festival dei Gufi che c'è a Grazzano Visconti oggi e domani, perché dovevamo essere tutti là. Presidiamo il territorio dei nostri ascoltatori preferiti. Esatto, i nostri ascoltatori preferiti. No, c'è davvero, cari ascoltatori, il Festival dei Gufi. Naturalmente parlano seriamente di questi rapaci notturni, che però a noi stanno simpatici perché hanno due caratteristiche. Primo, vedono al buio, e secondo, vedono lontano. Forse per questo, caro Mario, che invece la politica italiana non stanno tanto simpatici. Che dici? No, assolutamente, cioè, noi siamo assolutamente lieti di questo evento che deve assolutamente trovare ampia pubblicità. Esattamente. Poi grazie a Visconti è anche un posto bellissimo. È vero, sì, è molto bello. No, ma infatti comunque onore agli scienziati e agli appassionati di rapaci notturni che oggi e domani danno vita a questa bella manifestazione che è alla quinta edizione, però quest'anno per via di Renzi ovviamente ha una possibilità di moltiplicare gli appassionati, per così dire. Allora, vediamo di che cosa parliamo oggi, in questo 26 settembre, San Cosma e Damiano. Damiano non è però il presidente della commissione San Damiano è un'altra cosa. Allora, noi cominceremo come sempre con una riflessione sui dati dei mercati, la Fed che cambia idea, la stima di quello che succede ovviamente sulla crescita anche da questa vicenda tedesca, e vedere un po' se tornano i conti su cui verranno fatte la legge di stabilità italiana dopo la nota di aggiornamento del DEF. Lo sapete, cominciamo sempre la nostra trasmissione con Mario Seminerio, che appunto è la crisi, e dopo questo abbiamo due grandi blocchi, per così dire, sui quali vi chiedo da subito di intervenire chiamandoci all'800240024 fino alle 12, le vostre opinioni per sms 349-238-6666, e poi sull'account Twitter, su Facebook, dovunque vogliate, sapete come fare a raggiungerci, ma intervenite. Di che cosa parliamo in buona sostanza? Sono questi due primi grandi blocchi. Uno su la polemica esplosa questa settimana sulla stretta degli esami clinici, enorme reazione, un'insorgenza di di fronte all'identificazione da parte del Ministero della Sanità di una stima della cifra per il Fondo Sanitario Nazionale ogni anno dell'importo di troppi esami clinici inutili, cioè stiamo parlando addirittura di 13 miliardi di stima, 208 prestazioni di esami di vario tipo messe sotto il microscopio, perché d'ora in poi ci sarà una stretta nelle procedure per poterli autorizzare da parte dei medici. Tutti i sindacati dei medici, tranne uno, che infatti abbiamo invitato, insorgono, così fanno le regioni, grande dibattito, ma a noi interessa capire se voi avete la sensazione o meno che questo problema ci sia, se davvero i medici, da una parte per paura delle cause, dall'altra per sgravarsi responsabilità, eccetera, eccetera, autorizzino molti esami, quanti di voi in realtà poi vanno davvero a quelli pubblici e non, se sono urgenti, mettono manina al portafoglio e se le pagano in privato per averle in fretta, e comunque ragioneremo su questo. E poi c'è un altro secondo grande blocco più lungo, che parte dalla grande vicenda esplosa lunedì scorso, quella della mega truffa della Volkswagen, che è ancora in corso. Ieri hanno sostituito l'amministratore delegato e c'è un ampio giro di nuovi dirigenti, perché cambiano quelli di Skoda, quelli di Seat, cambia il capo in America e così via. Ma qua si tratta di capire due grandi cose. Da una parte iniziare una stima di un effetto di quello che avrà questa vicenda sull'auto o su chi produce per le auto tedesche in Italia, ed è tanta roba, perché pensate che l'automotive italiano inglobato nelle auto tedesche è stimato 1,2 punti percentuali di PIL, quindi stiamo parlando di una cifra molto elevata. E poi però c'è anche una questione di fondo, perché rendetevi conto che sugli standard delle emissioni ambientali verdi è da 10-15 anni che l'Unione Europea ha messo il piede sull'acceleratore. Vi do solo queste due cifre. Nei soli anni successivi alla crisi del 2008, cioè 2009-2014, nei sei maggiori produttori, paesi europei produttori di auto, i piani di incentivo fiscale alle auto verdi, quindi Euro 5, Euro 6, esattamente le cose su cui poi si truffava l'Euro 6, sono stati superiori a 15 miliardi di euro. Stiamo parlando non dell'Italia, perché l'Italia era uscita dai sostegni alle auto verdi e comunque dava poche decine di milioni di euro l'anno negli ultimi anni, ma stiamo parlando di Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito. Se poi ci allarghiamo ulteriormente e guardiamo tutti i programmi di incentivo verde in Europa nell'ultimo decennio, quindi a cominciare da quelli più pesanti di tutti, l'energia, siamo a una cifra di 300 miliardi di euro, e cui solo per energie alternative in Italia siamo a 12 miliardi l'anno, la Germania 20 miliardi l'anno, quindi capite che in 10 anni si fanno e come 300 miliardi. Allora, di fronte a cifre di questo tipo, la domanda diventa: ma siamo sicuri che non ci sia dietro, come sembra per esempio nell'auto, una grande coalizione di interessi impropri tra produttori e regolatori che fanno le prove ad hoc per dimostrarci che tutto va per il meglio, ma dietro ci sono centinaia di miliardi di euro pubblici? Ecco, questa domanda, che non significa dire che non ci vogliono standard più pesanti, non significa negare che dobbiamo andare in un mondo di sostenibilità, però quando ci sono centinaia di miliardi di euro in ballo è una domanda, dal mio punto di vista, più che legittimo. E quindi chiamateci, abbiate o meno un'auto Volkswagen, per dirci da come la pensate sullo scandalo, se pensate che sia solo i tedeschi o un problema generale, e quanto vi fidate di tutti questi controlli. Io vi racconterò molti episodi che riguardano altri settori della produzione, dai frigoriferi agli aspirapolvere, in cui il giudizio generale dei tecnici è che siamo in presenza esattamente di cose del tutto analoghe. E allora il problema è: ma ci dobbiamo fidare di tutti questi soldi dati così? Ecco, allora, detto tutto questo, fatemi finire questa introduzione con una nostra grande vittoria dei gufi, perché ieri, caro Mario e caro Renato e caro Alberto, il Ministero del Lavoro è stato obbligato, dalle pressioni di chi come noi li infilzava a ogni rilascio mensile, il 25 di ogni mese, di numeri confusi sulle attivazioni e cessazioni delle comunicazioni del mercato del lavoro, è stato obbligato a non farlo, perché piuttosto che fare altre puttanate hanno dovuto dire aspettiamo e concordiamo con Istat e con INPS. Mario, una vittoria l'abbiamo avuta. Sì, adesso, come dicevo prima, il mio problema è che adesso non tengano fermi anche i dati Istat, fin tanto che non ci lavorano sopra, mettono la torta in forno. Però io volevo coinvolgere un attimo Carlo Alberto, non vorrei essere off topic o sballare i tempi della trasmissione, non però settimana scorsa Carlo Alberto enfatizzava il fatto che finalmente da qualche tempo in questo paese si parla di statistiche, esatto, macroeconomiche. Ora, manco a proposito, ma si parla, Mario, dai, su, no, sì, si parla, però tu hai visto che questa settimana il nostro Presidente del Consiglio è riuscito a esaltarsi per un dato non destagionalizzato, per un tendenziale non destagionalizzato, per cui io riflettevo proprio sulla tua posizione e non sono sicuro di essere d'accordo, perché mi pare che qui tra castronerie, propaganda e ignoranza crassa non ne usciamo fuori, per cui parlatene in bene o male purché ne parliate, ma non sono sicuro che funzioni così, perché non facciamo altro che peggiorare la qualità del dibattito pubblico. Però forse sono io che sono un po' troppo sofista, diciamo. Bravo, Renzi si ecciterebbe anche per la sequenza dei numeri di Fibonacci, se per questo. Sì, però il primo dato grezzo, tendenziale, fortemente negativo che esce, perché ne esce, è fatale, ci aspettiamo che qualche genio dall'opposizione lo sbertucci, così non ne usciamo più. Va bene. Quale opposizione? Mi sono perso. Quale opposizione? l'opposizione alla realtà, sono tutti in opposizione alla realtà in questo paese. Comunque portate rispetto al Presidente del Consiglio, che è impegnato in uno straordinario fine settimana a New York tra Nazioni Unite, concerto di Bono, la Clinton Foundation eccetera eccetera, e qui portiamo rispetto. La RAI ha mandato una vagonata di inviati, naturalmente mandati dagli stessi, che ma dicono perché che vanno a vedere gli U2, credo. No, a sentire il nostro Presidente del Consiglio. Allora torniamo tra un minuto, iniziando a vedere a che punto è la crisi. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, strigiamci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta. Io ricordo a tutti qual è lo spirito di questa trasmissione mattutina che serve. Suonate la carica! Esattamente questo, esattamente questo. Allora, sono stati giorni per i mercati un po' singolari, cioè con rimbalzi e rimbalzoni, picchi negativi per i tedeschi, poi rimbalzoni. Allora, bisogna cercare un po' di capire che cosa sta avvenendo, non solo sui mercati finanziari, ma su quelli reali, perché siamo in presenza effettivamente di circostanze tali da far grattare la testa anche a chi crede davvero di sapere sempre interpretare più o meno alcuni fondamentali dei mercati finanziari. Ma prima di tutto, basta, questa è stata confusa con la sigla. No, questo sei tu che sei dissociato e ti stai contestando. Esatto. Possiamo andare a casa, quindi. No, dai, la sigla di a che punto è la crisi. No, anche noi abbiamo opposizione interna. Se una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa no. Allora, mettiamo ordine in questo caos, non so, dei nostri lanci di stacchetti musicali. Mario, da cosa vogliamo partire? Dalla Fed, dal Fondo Monetario che rivede al ribasso la crescita tedesca? Che dici? Ma c'è tanta carne al fuoco. I mercati, abbiamo visto che ormai trovano sempre e comunque elementi per essere depressi. Cominciato con la cosiddetta svalutazione cinese, adesso abbiamo proseguito con la Volkswagen. Probabilmente ci saranno anche altri pretesti, che poi non sempre sono pretesti, ma c'è anche dietro la sostanza, per cui credo che sia un mood negativo nell'economia mondiale, che presto si trasformerà, temo, in dati macroeconomici non particolarmente positivi. In questo quadro, cioè, diciamo, è come se i mercati cercassero delle scuse per, sì, esatto, un riaggiustamento. Io psicologicamente la vedo così. Ci sono settori che effettivamente sono molto molto tirati. Poi c'è anche lo stesso comportamento della Fed, che diciamo non ha ancora deciso cosa fare da grande. Però secondo me non sta sbagliando, nel senso che l'incertezza è talmente elevata che la funzione di reazione di una banca centrale si cambia in corso d'opera, per cui io tenderei ancora a dare credito a Janet Yellen. Ciò detto, il problema principale è: avremo nel 2016 un rischio, non dico recessivo, perché allo stato attuale delle informazioni attuali è sicuramente troppo dire questo, ma comunque un rischio di rallentamento. E soprattutto, riuscirà l'economia europea a restare non un'isola felice, ma comunque a proseguire in questi timidi segnali di ripresa alimentati dalla domanda interna? Questa è la domanda da $1 miliardo o di euro per tutto il 2016. E questa è una domanda che deve porre, diciamo, gli addetti ai lavori in una situazione di cautela. Cioè non si può dire, non si può tutte le volte dire la crescita è ripartita, abbiamo svoltato eccetera. Cioè io non è per fare polemiche, no, ma certo, qui continuiamo ad essere distaccati dalla realtà. Per cui questo è il dato di fatto. Poi, quando noi diciamo realtà, ascoltatori, ci sono dei dati, ne richiamo due. Cioè ieri sapete che c'è stata la visita, c'è la visita in corso agganciata alle Nazioni Unite, per cui anche Renzi a New York, del leader cinese negli Stati Uniti, e anche una visita in cui sono evidenti i segni per rassicurare i mercati sulla crescita cinese. Trovate sui giornali di oggi le dichiarazioni del capo delle statistiche cinesi, per così dire, che è al seguito di Xi Jinping, e domandato: ma qual è la stima reale vostra crescita? Ma noi abbiamo una bottom line che parte dal 6,5%. Voi capite che 6,5 è un punto meno di quello che tutti dicono essere la stima attesa. Allora capite che un punto di PIL cinese in meno per il mondo non è proprio così secondario. E comunque, secondo fatto, ieri il Fondo Monetario Internazionale, proprio partendo dalla vicenda Volkswagen, ha rivisto al ribasso la stima di crescita della Germania, sia pure di uno 0,1, però intanto l'aveva rivista al ribasso per il 2015 e il 2016. La domanda è, cari ascoltatori, se c'è la frenata e tanti segni dicono che ci sono correzioni al ribasso in attesa, solo noi invece alziamo al rialzo le nostre previsioni di crescita, le nostre previsioni di PIL nominale, cioè di inflazione, su cui inchiavardiamo tutto il fatto di poter fare più deficit e diciamo addirittura che poi in presenza di più deficit cala il debito pubblico? Perché questa è la scommessa in corso nell'Italia. E poi c'è da dire anche che l'altro ieri è uscito un articolo di Bloomberg Business dove è stata fatta una simulazione anche con i dati di inflazione attesa per l'anno prossimo, no? Il governo italiano nel DEF mette il deflattore all'1%. In realtà questo è abbastanza, rischia di essere veramente una previsione irrealistica. E se le cose staranno in questi termini, cioè se la previsione è irrealistica, il rapporto debito-PIL addirittura nella simulazione di Bloomberg supera il 134% anziché stare sotto il 132%. Noi rischiamo una procedura di infrazione per squilibrio macroeconomico, che è il rapporto debito-PIL. Quindi all'interno di un DEF che è relativamente realistico per quello che può valere una previsione economica, c'è questo dato del deflattore del PIL e quindi della crescita del PIL nominale italiano che non è molto realistico. Però quasi nessuno tra tutti i nostri trombettieri, diciamo che sono tanti, ha notato che l'Istat ha dato i dati consuntivi 2014 di pressione fiscale. La pressione fiscale è aumentata di 2 decimi di punto nel 2014, cari ascoltatori, superando il 2015 di un decimo. Ora, siccome l'anno scorso ci hanno frantumato i Cabasisi, sì, 14 su 13, ci hanno frantumato i Cabasisi con questa storia che la pressione fiscale calava. Scendeva, sì. Esatto, ma in realtà non è scesa, però ribadiranno che se si considera il bonus di 80 euro. Però, ragazzi, parliamoci chiaro, il bonus di 80 euro contabilmente è appostato come spesa pubblica per prestazioni sociali. Vorrei ricordare che quest'anno l'Italia si accinge a presentare tra 2 settimane alla Commissione europea una bozza di legge di stabilità che aumenta il deficit PIL strutturale, cioè aumenta il deficit PIL strutturale e lo porta allo 0,7%. Si può discutere di tutto, però dobbiamo anche essere consapevoli che noi stiamo andando a chiedere non il mantenimento delle condizioni fiscali dello scorso anno, ma un ulteriore allentamento, esatto, senza il quale noi non riusciamo a quadrare i conti, perché la spending review sta venendo ridimensionata di giorno in giorno. Oggi siamo arrivati intorno ai 7 miliardi di revisione di spesa rispetto ai 10 originariamente previsti. Quindi, se la Commissione europea dovesse anche solo accettare metà delle nostre richieste e o se la congiuntura internazionale dovesse tangibilmente peggiorare, noi avremo dei problemi non lievi. Vorrei sentire però l'ottimista Carlo Alberto, di solito ci serve per riequilibrare a favore del governo le nostre previsioni un po' critiche, però Carlo Alberto, tu che dici? Dico che intanto sono veramente preoccupato di chi misura l'inflazione, perché noi parliamo tutti con questo convitato di pietra che però, siccome stabilisce molta parte dell'effetto nominale complessivo del nostro PIL ed è ormai fuori controllo, non nel senso che non lo controlliamo, l'inflazione è difficile da controllare anche a livello nazionale, ma non riusciamo neanche più a misurarlo, no? Abbiamo visto la Fed che in questi pochi giorni è molto oscillante sulla capacità di controllare l'inflazione. Qualche giorno fa diceva ci vorranno 6 anni per riportarla in linea al 2%, ieri la Yellen ha detto no, forse siamo più ottimisti, riusciamo a riportarla nel giro di qualche anno. Dico così perché l'inflazione è veramente un pezzo fondamentale per capire che cosa succede di queste prospettive. Sappiamo, Mario lo ricorda sempre, che abbiamo un problema di equilibrio fra il costo del debito e crescita nominale del PIL. Ecco, io dico che il governo dovrebbe essere un po' più chiaro sul tema dell'inflazione, perché l'inflazione è un tema che riguarda tutti e ci viene in un certo senso imposto da un'agenda internazionale. Quindi Perché il problema è che la Cina esporta deflazione e il problema è che lo fa tanto più quanto la sua crescita non è sostenuta da consumi interni travolgenti e quindi diminuisce, e quindi in realtà nel quadro internazionale noi abbiamo più deflazione che si riverbera sull'Italia rispetto a questo scatto da 0,3 di inflazione di quest'anno attesa all'1% in presenza di un mondo che invece ci rimbalza deflazione, e là è una scommessa molto difficile. E c'è un elemento microeconomico che spesso gli economisti dimenticano, che c'è una pressione sui prezzi derivata da dall'effetto Internet, come lo chiamo io, cioè qui sia beni e servizi sono comparati in termini di prezzi, ma anche il lavoro subisce una pressione fortissima al rialzo, perché è molto più facile oggi fare outsourcing, quindi ricorrere alla delocalizzazione. Questo tiene a bada l'inflazione come mai prima, cioè c'è questo effetto microeconomico importante che è strutturale e che rende molto difficile rimbalzi in alto dell'inflazione, molto difficile. In questo senso dico, dobbiamo essere prudenti, perché questa rialzo dell'inflazione, che è la scommessa che sta facendo il governo senza basi né microeconomiche né macroeconomiche, le rende poco credibili. Quindi mi spiace, ma non sono neanche io stavolta ottimista. Se non è ottimista, lui si è un posto. Teniamo presente poi che in realtà nei dati trimestrali che abbiamo alle spalle, quelli corretti al rialzo, la crescita italiana dall'Istat, la componente della manifattura, per dire un'altra cosa reale, l'unica componente della manifattura, e questo vale per i diversi da quattro contributi al PIL, il settore dell'auto naturalmente, sia la produzione diretta, sia la ripresa degli investimenti, sia il fatto che alimenta l'intera catena dell'automotive in Italia, dai concessionari fino alle officine e così via, valle. E la quarta cosa è l'export, perché ormai nella ripresa della produzione degli stabilimenti Fiat in Italia si fanno le cose perché poi vanno all'estero. Allora, però l'unico settore della manifattura che era in crescita a doppia cifra in realtà in questi quattro contributi è quello dell'auto, quello su cui adesso c'è il grande punto interrogativo proprio per la vicenda tedesca, che è quella che spinge il Fondo Monetario a dire subito alla Germania io ti levo subito 1,01 di PIL. Quindi qui bisognerà vedere, ci guadagneranno i concorrenti, compreso Fiat Chrysler, oppure come i mercati finanziari temono, vedere gli andamenti di questa settimana, ci perdono tutti nel mercato dell'auto, chi più chi meno. È ovvio che per Volkswagen sarà una sberla che ci metteranno anni. Tu che dici da questo punto di vista, Renato? Ma io credo che noi eravamo talmente in basso col PIL che dire 0 virgola in più potrebbe anche essere, ma perché è il solito discorso, è come quando tu cresci col fatturato, se non fatturi niente puoi fare il 100% di fatturato, se fatturi un miliardo di euro diventa più difficile fare più fatturato. Infatti ho ricordato che la promessa che è stata ribadita da Canda, Exor, quindi azionista di Fiat Chrysler, di tornare nel 2016 a 1 milione di auto prodotte in Italia, e da un certo punto di vista fantastico, perché comunque è superiore alla cifra a cui eravamo nel 2007, l'ultimo anno del pre-crisi, che erano 917.000, ma nella serie storica della produzione di auto italiano significa tornare al 1963, perché nel 1963 fu il primo anno in cui si valicò la cifra del milione di auto prodotte in Italia, e da allora non scese più sotto il milione fino appunto al 2007. Questo è il punto, per capirci, picco storico l'89, quasi 2 milioni di auto prodotte in Italia, 10 anni dopo nel 97 erano comunque 1,5 milioni, poi fine anni 90 inizia la crisi Fiat, si inizia a scendere e siamo scesi poi dai 917.000 del 2007, siamo scesi ohimè nel 2014 a 420.000 era il livello del 1958 di produzione di auto in Italia. Sì, dove ben venga il milione, ma dove c'era anche una situazione, diciamo, leggerissimamente diversa, per così dire, per quanto riguarda proprio il valore del mercato italiano, insomma. Una cosa da dire, ordinativi industriali stanno andando piuttosto bene, quello che si diceva del famoso tweet di Renzi, anche se avesse preso i dati destagionalizzati su base annua c'era più 9,8, per cui era eccellente. Riconosciamolo al Presidente del Consiglio. No, ma non riconosciamolo alla realtà più che al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio deve imparare a distinguere i dati, ma il problema è un altro. Questi dati si conferma per l'ennesima volta, così come per la produzione industriale, che sono figli dell'automotive, sono figli, esatto, della ripartenza su vasta scala di Fiat in questo paese. Tenete conto che c'è tutto il fattore scorte, perché l'avvio dei nuovi stabilimenti e l'avvio delle nuove produzioni che stanno partendo adesso, perché noi ci dimentichiamo sempre che noi vediamo uscire le macchine, certo, e le automobili, per dire, a marzo dell'anno prossimo, ma in questo momento stanno già lavorando sulle linee della Giulia, sì. Esattamente così, eccetera, esatto. Eccetera. Quindi il fattore sul PIL, pensate a quanto costa fare uno stabilimento di automobili, in macchinari, in componenti, eccetera, eccetera, ha dei fattori molto elevati. Infatti. E ha dei tempi che non sono quelli che uno si immagina, perché oggi stanno già in pratica producendo tutte le parti per la Giulia. Però paradossalmente, come forse non avremmo riaspettato, la crescita italiana è riappesa alla Fiat, e questo è il punto vero, perché tranne l'energia o troppo caldo d'estate. Vedremo se fa freddo, gli altri settori della manifattura hanno sono o piatti. Componenti di crescita modesti o sono piatti, esatto. Questo è il punto vero. Esatto. Non a caso, scusa, la Merkel sapeva della questione tedesca. Ed è stata ben zitta, perché anche in Germania, la grande Germania, Audi, Volkswagen da sola è BMW, un quinto dell'export tedesco, e Mercedes, comunque, alla fine, ragazzi. Esatto, e comunque le produzioni Fiat in misura rilevante sono destinate all'export. Certo, quindi, e quindi, cioè, noi abbiamo un beneficio in questa, forse per la prima volta, esatto, da tempo in memoria, certo, in quanto paese esportatore di un bene durevole di consumo, che quindi può fungere da volano di crescita, ma vale anche il rovescio della medaglia: un rallentamento della congiuntura internazionale impatta in maniera amplificata sulla produzione degli impianti Fiat, che in ampia misura producono per l'export. Quindi questo è da tenere presente, non è tutta domanda indigena. Ci torniamo sopra quando apriamo il blocco relativo alle conseguenze della maxi truffa di Volkswagen, e quindi dopo le 11. Intanto adesso, dopo la sospensione, apriamo la riflessione su troppi esami clinici e interessi dietro, farmaceutici, dei medici, oppure no, oppure ha ragione chi protesta ed è il governo che taglia. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia, le veste, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui in questo sabato in cui inizia il Festival dei Gufi a Graziano Visconti. Invece noi siamo a telefono con voi per darvi un buon inizio di fine settimana. Inizio di fine settimana con i compari dei Conti della Belva. Mario. Renato. E Carlo al telefono. Carlo Alberto. Ci sei sempre, il segnale che si perde tra un po', però ci sei. Allora, questa settimana è esplosa questa polemica sulle analisi inutili. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una misura che il Ministero della Sanità cala per confermare ulteriormente l'obiettivo 2015 dell'anno in corso di minore spesa sanitaria, che confermerà, vedrete, nella legge di stabilità. Intendiamoci su questa minore spesa sanitaria: non è un taglio indietro rispetto ai livelli reali di spesa, è semplicemente che il governo si è dato da fare nel 2015 e lo stesso farà nel 2016 con la legge di stabilità, per non fare scattare il più dei già previsti e sottoscritti con le regioni aumenti delle spese del Fondo Sanitario Nazionale nel 2015 e 2016. Quindi nel 2015 2,3 miliardi di aumenti del Fondo Sanitario Nazionale sono diventati risparmi di spesa. Come sempre si contrabbanda per risparmio, non un'incisione su un livello di spesa reale, ma evitare che aumenti. Comunque, per fare davvero questi 2,3 miliardi il Ministero ha calato un altro asso, cioè questa lista di 208 prestazioni, esami clinici, radiologici e di tutti i tipi, sui quali il sospetto è che i 13 miliardi siano spesi male e di troppo. E il governo mira a un efficientamento intorno ai 200 milioni, il numero delle prestazioni di questo tipo erogate dal nostro sistema annualmente è di 200 milioni, i medici e le regioni sono in sorte, così i sindacati. Allora, cominciamo innanzitutto con una telefonata di un ascoltatore esattamente su questo, Cristina, che ci chiama da Roma. Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, Oscar, grazie. E io aspetto sempre che lei ritorni a fare politica per poter temo che aspetterai a lungo. L'era di Renzi o di una destra Salvini e non so di chi, quella sarà prevalente. Ma detto questo, Cristina, cosa pensi di questa cosa degli esami dei medici? È giusto incidere oppure hanno ragione i medici? Io penso che, innanzitutto lo Stato italiano ha dei problemi seri di spesa, per cui mi sembra sacrosanto che ogni ministro faccia dia il suo contributo per la riduzione della spesa, e lo trovo l'atteggiamento di contestazione, protesta così pur mi sembra proprio assurdo. Cioè, ognuno di noi in famiglia, quando ha dei problemi di conti che non riesce a sopportare, taglia le spese. Questo è il numero uno. Numero due, credo che tecnologicamente parlando ci sarebbe anche la possibilità di vedere effettivamente per cittadino la frequenza di certi interventi, di certe esami, e di conseguenza poi ci sarebbe anche una modalità per andare a stabilire se poi effettivamente quegli esami vengono richiesti in modo troppo frequente per certe categorie di cittadini oppure no. Allora, in realtà le procedure e i controlli di cui il Ministero propone un giro di vite, naturalmente a cominciare dai medici che devono compilare quindi un più esaustivo protocollo per giustificare gli esami di cui chiedono che vengano effettuati, è esattamente uno dei punti della polemica su cui le diverse associazioni di rappresentanza dei medici hanno protestato, dicendo voi ci volete ridurre a degli scribacchini e credete di risolvere questo problema. In realtà, dicono al più delle associazioni dei medici, l'impatto del giro di vita su questo significa uno screening preventivo inferiore, quindi i costi maggiori perché poi si verificano le patologie e a quel punto bisogna ricoverare, intervenire e operare, risparmiare su questo, oltre che una diffidenza generale verso i medici che prescrivono, comporta delle spese poi più avanti nella filiera della sanità. Allora, per capire un pochino meglio le voci dall'interno della professione medica, abbiamo due ospiti. Abbiamo con noi il segretario nazionale del Sindacato Nazionale dei Radiologi, Corrado Bibolino, grazie di essere con noi, buongiorno. Buongiorno. E il professor Giuseppe Remuzzi, che è il coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. Buongiorno Remuzzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, posso partire da Remuzzi. Che impressione ha di fronte all'impostazione di questo documento al Ministero della Sanità e di fronte alle reazioni che sono state eclatantemente dure del mondo della sanità e della medicina? Per quanto riguarda il decreto, bellissimo. Per quanto riguarda le reazioni dei medici, davvero non le capisco. Perché quando uno va a guardare queste specifiche, ci aiutano tantissimo. Sono delle cose fatte molto bene, attente. Tenete presente che un esame del sangue fatto per niente genera altri esami, raggi, interventi chirurgici. E tutto questo può portare a complicazioni che poi generano altri accertamenti e altre spese. C'è un bellissimo lavoro sul più grande giornale di medicina del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, che dice che l'etica di evitare gli sprechi deve diventare un imperativo morale per tutti, anche per i cittadini. E io penso che da noi l'etica di questa spending review dovrebbe essere l'occasione per rilanciare il sistema, il Servizio Sanitario Nazionale. Tenete presente che il vero problema è il Servizio Sanitario Nazionale. Certo. A noi sembra normale che se uno è malato possa avere un trapianto di cuore o di fegato e le cure più avanzate per il cancro, per esempio, senza spendere un euro. Ma in molte parti del mondo non è così. In molte parti del mondo avere qualcuno di malato in famiglia significa perdere tutto e indebitarsi. Questo vale anche negli Stati Uniti. E quindi abbiamo assoluta necessità di aiutare i medici a prescrivere bene, a non fare esami inutili. E questa guida che abbiamo è straordinaria, è fatta veramente bene. Non dice che il colesterolo non deve essere prescritto, ma dice come e quando deve essere prescritto e ci si attiene alle conoscenze scientifiche, che possono cambiare naturalmente. Tra l'altro, io posso andare avanti se volete sulla reazione dei medici. La reazione dei medici non è assolutamente giustificata. Loro dicono male sanzioni, ma intanto quello che prevede questo decreto è quello che un medico dovrebbe fare comunque, e il fatto che non l'abbia fatto per tanti anni vuol dire che le sanzioni sono assolutamente giustificate. Ma poi, se voi leggete davvero il decreto, dice: in caso di comportamento non conforme alle condizioni e alle indicazioni previste, l'ente chiede al medico le ragioni della mancata osservanza. Sì. E allora basta che uno dica: io ho fatto il colesterolo a una persona che aveva meno di 40 anni perché aveva una familiarità per alterazioni dei lipidi nel sangue, benissimo. Allora, qui abbiamo, insomma, un punto di vista di Remuzzi che è netto come nella tradizione. Insomma, Remuzzi secondo me è un punto di riferimento anche per la chiarezza con cui interviene nel dibattito e nella divulgazione, però dice: no, io sono d'accordo. Ripeto, il 99% delle associazioni rappresentative delle specializzazioni mediche hanno annunciato lotte, scioperi, eccetera, eccetera. Allora, Corrado Bibolino, come segretario nazionale dei radiologi italiani, voi siete stati un pochino più aperti, però ci dica innanzitutto perché la reazione è stata così dura degli altri. Ma questo, francamente, la durezza ha sorpreso anche me. Probabilmente si inserisce in un momento in cui comunque tutto il mondo medico e della dirigenza sanitaria è stato chiamato alla mobilitazione, all'agitazione, perché in effetti la misura è colma, ma è colma perché non riusciamo ancora ad avere un provvedimento sulla responsabilità legale, anche se speriamo che sia addirittura d'arrivo. È colma perché abbiamo... la responsabilità legale significa tutto l'enorme problema sulla colpa. Noi siamo gli unici, esatto, andiamo, no? In galera con una facilità estrema, esatto, per ogni atto e che questo negli anni ha accumulato anche, per così dire, comportamenti volti a evitare l'insorgere di essere chiamati in tribunale. Abbiamo più volte fatto trasmissioni sul fatto che le assicurazioni oramai non coprono più questo tipo di rischio professionale, si rifiutano e così via, quindi c'è un grande problema da questo punto di vista. A fine anno avremo migliaia di colleghi che non potranno trovare un'assicurazione. Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi con 21 regole diverse, quindi nel momento in cui si avviava questa mobilitazione è venuto a termine questo decreto, che peraltro è stato presentato il 4 di agosto dal ministro in una riunione collegiale. Poche voci, tra cui la mia, hanno espresso delle critiche. Nel momento in cui poi queste critiche, almeno per quanto riguarda il merito specifico delle prestazioni della radiologia di cui mi occupo, sono state accolte, è chiaro che io non posso che esprimere un giudizio positivo sull'avvio di una procedura che centrasse l'attenzione sull'appropriatezza, come chiediamo da anni. Abbiamo il più alto numero di risonanze magnetiche, esami di risonanza magnetica del mondo, in particolare per quanto riguarda la muscoloscheletrica. Ho visto anche sui giornali Lei lo sa che i suoi colleghi dicono che questo è un segno dell'eccellenza della sanità italiana. No, assolutamente. Sarebbe come dire che se uno mangia hamburger e patatine a bizzeffe è ben alimentato. Abbiamo un problema di obesità grave, come sappiamo, in molti paesi occidentali. Noi ce l'abbiamo su alcune prestazioni, quindi metterci mano. Dopodiché le sanzioni sono una strada non giusta, perché è un problema culturale. Io sono d'accordo con Remuzzi, abbiamo fatto anche noi sulla sovradiagnosi, riunioni, collegamenti, c'è un'intera associazione, si chiama Slow Medicine, ha lanciato un progetto: fare di più non significa fare meglio. Si riuniranno i 20 paesi che aderiscono a questo Choosing Wisely internazionale proprio a Roma e proprio nel centro di formazione della radiologia. Quindi c'è un tema reale. A me piace molto questa impostazione. Ci torneremo dopo il minuto di informazione stradale, sempre con Remuzzi e Bibolino, perché chiederemo un'opinione a una tesi che è proprio relativa a come si misura l'output, per così dire, della sanità. E quindi questa tesi che richiamava Bibolino non è il numero di prestazioni generale quello che dà la qualità dell'output sanitario, è una questione fondamentale da misurare e da guardare come criterio di efficienza. Poi figuriamoci nella sanità, quindi c'è la salute di tutti. Tra un minuto ripartiamo con Carlo Alberto, che ci spiega meglio questa faccenda. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta della belva. Eccoci tornati in diretta. Raffiche di SMS di ascoltatori che dicono, insomma, sono molto contrari al decreto. C'è chi dice: ma come, io pago tanto, adesso non devo fare gli esami. C'è chi dice: ma allora deve essere lo Stato a dire quante volte devo fare gli esami, dipende da quello che ho. Qua stiamo discutendo un provvedimento che chiede di fare esami appropriati, mica dice che non bisogna far fare gli esami a chi ha anche solo sospetti di patologie, eccetera eccetera. Però ecco, c'è una reazione molto critica, molto molto critica. Carlo Alberto, allora, come si commisura bene rispetto all'output sanitario questa faccenda della cultura dei fattori numerici? Sì, sai, il dibattito a livello economico in tutto il mondo si sta spostando da quanti esami fare e quanto è giusto pagarli, costi standard, quindi diciamo dal misurare quelli che si chiamano i fattori di input, quindi i mezzi della sanità, a misurare i risultati del trattamento sanitario, quindi gli outcomes. In particolare l'Inghilterra e l'America su questo hanno investito moltissimo. E la responsabilità dei medici non va nel prescrivere l'esame, ma nel prendersi la responsabilità dei risultati in termini di salute e qualità della vita, anche la responsabilità economica di questi risultati. Quindi, siccome il dibattito in Italia, se posso dire, è un pochino vecchio, per quanto io apprezzi lo spirito del decreto del governo e quindi l'idea che comunque dobbiamo ridiscutere il nostro sistema nazionale, sistema sanitario nazionale, non dobbiamo ridiscutere in questi termini, non dobbiamo ridiscutere misurando i mezzi, ma cominciando a misurare i fini, gli outcomes. E questo, scusami, riguarda anche i medici, che ovviamente sono comprensibili alla loro reazione dicendo entrate a dirsi quello che dobbiamo fare. E purtroppo sì, nel senso che vi chiediamo di essere responsabili non solo eticamente, ma economicamente, quantitativamente, di una cultura di misurazione dei risultati, degli effetti di quello che prescrivete. Invece il Sistema Sanitario Nazionale e i medici misurano soltanto i mezzi. Questo è il grande dibattito. Mancano purtroppo le metriche, manca la cultura di misurazione dei risultati. Che sei stato chiarissimo, certo. Sentiamo al volo che ne pensano Remuzzi e Bibolino di questo. Remuzzi. Certo, questo è assolutamente il problema. Noi abbiamo dei controlli, per esempio, che sono controlli sulle procedure, non sono mai controlli di esito. Ah. Questo lo scrivevamo tanti anni fa. Ora, i controlli di esito sono semplicissimi. Quanti ammalati abbiamo guarito e quanti di quelli che non potevamo guarire perché avevano una malattia di quelle che non guariscono sono stati meglio della media dei malati di tutto il mondo con quella malattia per il tempo che gli restava di vivere. Questo vorrebbe dire che il nostro ospedale, il nostro medico, la nostra ASL è meglio della media europea, della media americana. Quindi il discorso che abbiamo sentito adesso è impeccabile. La reazione della gente è parte del problema. Se la gente si lamenta e dice non posso più fare esami, questo rischia di mettere in crisi il nostro servizio sanitario. Ma perché scambiano gli esami con i fini. Per l'italiano prendere più medicina o fare più esami è il sostituto ecco, alla però, qualità della vita. Però la responsabilità non è della gente, la responsabilità è di noi medici che non ci spieghiamo. Ecco, noi dobbiamo imparare a parlare con gli ammalati, dobbiamo dedicare più tempo a parlare con gli ammalati. Dobbiamo dire all'ammalato, guardi che se io non le prescrivo questo esame, non vada dall'altro medico che prescrive di più, o non vada dall'altro medico che le darà un migliore farmaco, tra virgolette, migliore. È quello che fanno gli ammalati. Dobbiamo, è difficilissimo proprio perché non l'abbiamo mai fatto. Guardi che il medico come mediatore culturale, io ne sono fondamentalmente convinto per quello che ho visto nella vita, la gente stare male io stesso, è una delle questioni di fondo. Io quando vedo i rappresentanti medici che insorgono per dire ma fateci fare il nostro mestiere, non credeteci di fare cose improprie, io dico non sono cose improprie, dovrebbe essere l'ABC fondamentale del come contribuisci a far evolvere la sensibilità e la comprensione del fenomeno della salute con i pazienti o con quelli che curi o con quelli che vengono a dirti di quello che hanno. Allora, io credo profondamente in questo. Di solito ho avuto una risposta tipo no, scusa, questo lo faccio qualcun altro, io faccio un altro mestiere. Bibolino, che dici su questa inversione rispetto agli input io degli outcomes? Ho scritto in Italia il primo e ancora unico 5 anni fa lavoro scientifico sull'inappropriatezza di alcuni esami. Basta aprire alcune testate stamattina che strillano contro l'aumento delle liste d'attesa, oppure pensare a chi apre gli ospedali di notte. Cioè, se si pensa di fare retorica e demagogia su un tema che invece appunto chiede che si valuti l'efficacia in un sistema che già sta funzionando bene, che rischiamo di buttare via, perché questo è un paese, certo, come abbiamo visto da 30 anni a questa parte, che ogni volta che succede qualche cosa anela a buttare via l'acqua. No, questo è il rischio da evitare, però insomma abbiamo tentato di far riflettere tutti i nostri ascoltatori sul fatto che è un problema di fondo questo. Ci risentiamo dopo Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta in questo sabato 26 settembre. San Cosma e Damiano, i compari dei Conti della Belva, oltre a Oscar, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e al telefono Carlo Alberto. Ci sono. Ma una marea di messaggi telefonati, quindi esauriamo per qualche minuto ancora, almeno dando voce a alcuni dei tanti che tentano di intervenire su questa storia dell'appropriatezza degli esami clinici da controllare e giustificare. Ci sono telefonati di alcuni medici. Cominciamo con Giovanni da Pisa. Giovanni, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Tutto uno straonore parlare con lei e gente no. come il seminario. Ecco. No. Questo sì, per carità. Volevo dire una cosa rapidissima sul fatto che questa non è certo la prima spending review e non è certo quella che, al netto di tutte le riduzioni della spesa che devono essere fatte, guarda il vero problema. Perché ho l'impressione, io sono un giovane medico qui a Pisa, ho l'impressione che il governo Renzi, con queste manovre, guardi più al dito mentre il problema sia sulla luna. Mm. Anzi, direi the dark side of the moon. Mm-mm. Perché la vera spesa, il vero problema della spesa, oggi, in cui a me manca posti letto per ricoverare pazienti difficili e delicati, è l'incapacità di mettere mano alla spesa nell'ambito amministrativo relativo alla sanità. Non è possibile che ospedali, aziende sanitarie, per non parlare di quelle universitarie, abbiano una spesa mostruosa legata a amministrativi stipendiati in uffici riempiti da sottoscambi di viceaiuti, gente che sta lì, che nessuno verifica l'operato e quello che fa, mentre io devo stare a cercare un posto letto da Pontedera a Pisa, a Pescia, a Livorno, per uno che magari ha un ictus emorragico e non riesco a fare operare, devo chiamare il mio collega cardiologo che non può venire perché magari anziché essercene due disponibili ce n'è chiarissimo, uno. Chiarissimo, lei dice c'è un enorme peso degli amministrativi della sanità e io naturalmente sono d'accordo con lei. Naturalmente, qui però stavo parlando del decreto sull'appropriatezza diagnostica e che capisco, lei dice sì ho capito ma saranno 200 milioni in meno rispetto ai 112 miliardi annui, questo lo capisco, le risorse le danno ragione infatti, e però ci segnala un'altra questione, torneremo sulla questione degli amministrativi in sanità allora più avanti. Sentiamo Franco da Torino, un altro medico ospedaliero, lei Franco? Buongiorno. Buongiorno. Beh, uno dei tanti problemi come al solito è anche quello dei tagli lineari. Se invece di fare tagli lineari si va veramente nella direzione dell'appropriatezza, ma per fare questo discorso bisogna che per esempio uno degli imbuti principali che ci si trova a doversi confrontare è quello del medico di base. Il medico di base è oberato di richieste di salute da parte della cittadinanza e della popolazione ed è lì uno dei cardini che bisogna veramente andare a verificare in prima istanza. Voglio dire, l'appropriatezza diagnostica, il seguire le linee guida per quello che riguarda la richiesta di esami è il punto fondamentale, ma il tutto deve essere quantificato. Se non è quantificato e non è verificabile, il discorso cade. Uno dei problemi che si trova con cui si trova per esempio il medico ospedaliero a doversi confrontare giornalmente è l'inappropriatezza degli esami che vengono chiesti. Adesso non voglio fare lo scontro. di tipologie di medici, però quello è un problema fondamentale per cui c'è una richiesta esagerata. Ecco. Di esami che risultano inutili. Allora io ringrazio Franco perché questo è il modo per capire che insomma ci sono diverse componenti che cooperano a questo eccesso di esami diagnostici. Sentiamo ancora Giovanni da Piacenza. Giovanni. Sì, buongiorno. Io chiamavo per dire un po' la mia su questi esami. Sì, dica. Dunque io faccio un lavoro che giornalmente vedo quello che è lo sperpero nella sanità e un po' mi collega a quello che diceva prima il dottore che chiamava da Pontedera, non so, sì, sì. Allora io adesso tocco una categoria di persone che oddio magari chi quale ci sarà un vespaio. Io lavoro in carcere, sono un ispettore di polizia, io giornalmente vedo lo sperpero che c'è nella sanità nei confronti di queste persone, ma per carità nessuno dice che non debbano essere curati qualora questi hanno una patologia vera. Ma io mi rifaccio a tutte quelle persone che giornalmente per protesto, per chissà quale altro loro interesse, ingeriscono batterie, mangiano pezzi di plastica e poi si è costretto a portare in ospedale, operazioni, avere lì letti occupati e quant'altro. Io oggi ho 50 anni, guardi, lavoro da quando ne avevo 7. sì. E ho cominciato a pagare le tasse da quando ne avevo, avuto 18, perché sono entrato in amministrazione. Oggi che io comincio a diventare vecchio, grazie a Dio per adesso ancora non ho nessun problema di salute, oggi che probabilmente fra qualche anno magari vorrei fare qualche accertamento in più, vorrei fare qualche visita in più, cioè arriva la ministra della salute e ci dice che probabilmente devono tagliare, ma io sarei anche disposto a fare ancora tagliare. Il problema è qual è? Che questi continuano a mangiarsi le soldi. Giovanni, no, ma io sorrido perché sul fatto che in sanità ci siano tante cose che lei insomma sintetizza con l'espressione classica mangiarci non mi deve convincere, ma io vede Giovanni, però non credo che misure semplicemente di giustificazione più accurata degli esami diagnostici impediscano, sono sicuro, voglio sperare, sicuro no, che non sarà così, che non potranno impedire che lei quando avrà bisogno, auguriamoci il più avanti possibile, di esami specialistici complicati, reiterati eccetera eccetera, ne avrà diritto. Cioè, capisco che lei si preoccupa di questo, però noi abbiamo avuto un mucchio di segnalazioni di cittadini che ci dicono: io pago le tasse, ho bisogno di fare gli esami, ma se hai bisogno, non stiamo discutendo di quello, li farai se hai bisogno. Il problema non è che siccome paghi le tasse allora hai bisogno, hai diritto di fare gli esami ogni volta che tu vuoi, perché ecco, questa è una questione un po' complicata da capire. No, dovrebbe essere facile. Qui stiamo parlando dell'appropriatezza degli esami, non del diritto. Poi c'è anche la questione che molti hanno mandato gli sms dicendo: ah, ma ci sono le liste lunghissime, dobbiamo andare a fare il privato, voi siete ricchi, perché noi siamo ricchi, certo. Voi siete ricchi e le andate a fare nel privato. Semmai è l'opposto, secondo me. Se si fanno fare meno esami inutili, magari io alla mattina quando devo andare a fare l'esame del sangue perché ho bisogno di farlo, perché è un periodo in cui non sto bene, invece di trovarmi davanti 80 pensionati che sono lì a fare il solito esame del sangue mensile, esatto, ne trovo 10 che devono fare l'esame del sangue e le liste teoricamente scendono. Se facciamo meno esami scendono. Allora io lo sapevo che ci sarebbe stato un overshooting da parte del pubblico, perché la sanità, come è giusto, tocca a tutti. Ma guardate che anche la questione che apriamo adesso, quella del eco, delle code che saranno lunghe, pesanti, economiche, produttive, di commercio mondiale e di regolazione, perché è evidente che questa è la faccenda, stiamo parlando delle code dello scandalo Volkswagen, anche questa è una materia che tocca, e come tutti quanti. Allora cominciamo da un aspetto di fondo che è quello relativo a, non vedo però in questo momento se c'è Quagliano collegato, perché non me l'avete messo sullo schermo. Allora cominciamo intanto a tentare di capire qual è l'effetto sul mercato dell'auto, non solo su Volkswagen, lì la mazzata c'è come è evidente, ma è una mazzata che cosa implicherà? Solo le aziende tedesche? Solo il diesel? Come interverrà il meccanismo di rebound, di reazione da parte dei consumi, e come colpirà il totale dell'economia italiana? Allora abbiamo, per parlarne, è con noi il presidente del Centro Studi Promotor, che da tanti anni aiuta i giornalisti e giornalisti a capire meglio la realtà complessa degli andamenti del mercato dell'auto, Gianprimo Quagliano. Grazie presidente. Buongiorno. Allora, qual è la vostra stima a oggi di quello che succede nel settore anche in Italia e sui mercati mondiali dello scandalo Volkswagen? Beh, per quello che riguarda il mercato dell'auto, cioè il numero delle autovetture che verranno vendute, noi riteniamo che non ci sarà nessun effetto. Ah. E le spiego perché. Perché la gente non acquista le automobili in funzione dei livelli di inquinamento. Non gliene importa proprio nulla. Alla gente importa che non si inquini, ma non importa di non inquinare personalmente. Quindi la gente acquista le automobili, purtroppo è così. No, la gente acquista le automobili perché hanno determinate prestazioni, perché hanno una bella linea, perché anche e soprattutto non se ne può fare a meno. Perché al di là di tutti i bei discorsi, in tutto il mondo il trasporto su gomma è quello che ancora assicura la maggior parte della mobilità. Ma si sentirebbe di dire che quindi c'è un eccesso di preoccupazione perché Volkswagen, cioè un quinto dell'export tedesco, perde. Io sto parlando del mercato in generale, quello che si venderà. Poi naturalmente lei dice: se perde Volkswagen neanche tanto, ma si riequilibra. Qualcuno recupererà. Perché la gente dell'automobile non può fare a meno, purtroppo forse, ma non c'è un'alternativa credibile. Soprattutto il trasporto pubblico non riesce a soddisfare la richiesta, in particolare in Italia, dove solo il 13% degli spostamenti avviene con trasporto pubblico e dove durante questa crisi noi abbiamo visto che il servizio è peggiorato, sono state tagliate le linee e sono state aumentate le tariffe. No, allora, no, certo, non c'è dubbio. Quando dice qualcun altro recupererà, è un recupero quindi tale da farci guardare non con eccessiva preoccupazione quel punto di PIL abbondante che l'automotive, cioè la componentistica italiana, mette come valore aggiunto nelle filiere che hanno alla testa grandi gruppi tedeschi, o bisogna preoccuparsi di questo? Beh, io preciso che ho detto se Volkswagen perderà, perché non è assolutamente certo che Volkswagen perda quote di mercato. Qualcuno recupererà. Per quello che riguarda l'industria italiana, mi pare che indipendentemente da questa vicenda sia in atto un grande recupero. Ho sentito la vostra trasmissione stamattina, avete citato dei dati molto interessanti, eravamo a 2 milioni di autovetture, siamo arrivati prodotti, siamo arrivati a 400 mila, stiamo risalendo. Ma questo indipendentemente da quello che succederà sul mercato, questo perché avevamo un gruppo automobilistico che stava per fallire, è stato salvato, salvandone contemporaneamente un altro che è Chrysler, è nata FCA e FCA si sta affermando sul mercato con una politica aggressiva in termini di modelli, ma anche in termini di strategia. Ma è evidente che dopo l'IPO di Ferrari mette Marchionne, cioè quello di lanciare un tentativo con l'accordo di quello che è il primo socio, cioè il sindacato di General Motors. General Motors, tentativo di mercato dietro cui ci sono forze di mercato molto rilevanti, cioè Warren Buffett, non stiamo parlando proprio di un piccolo investitore, è favorevole al lancio dopo l'IPO Ferrari di un'offerta pubblica di acquisto del più piccolo, cioè Chrysler, su General Motors. Quindi lei dice quella è la lunga tendenza. Allora, intanto grazie a Gianprimo Quagliano per questa versione un po', così dire, per me un po' ottimistica di quello che succederà, però io mi fido di Gianprimo Quagliano, di cui da anno leggo le analisi. E poi adesso ci porremo invece un altro problema: cosa vuol dire questa grande collusione tra grandi produttori e regolatori in Europa, in settori non solo quello delle emissioni auto, ma delle emissioni in generale e delle verdi, per così dire, delle tecnologie verdi, che implicano risorse per centinaia di miliardi pubbliche. E lo faremo con un dibattito a voci contrapposte: chi dice no ragazzi, no, non confondete le cose, e c'è chi dice no, qui c'è qualcosa che non, di marcio dietro questa vicenda, non solo dell'auto. Tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, eccoci tornati in diretta ai compagni dei conti della Belva. Io devo dire, sono un po' perplesso di fronte all'ottimismo di Gianprimo Cavagliano. Noi stiamo parlando di una roba che colpisce al cuore i motori diesel. Insomma, i motori diesel sono più del 50% della domanda italiana, capite? Allora, sì, certo, riguarda Volkswagen, ma è un problema generale. Non è che l'alternativa domani, scusate, è che l'operaio che c'è qualche dubbio su quello che gli dicono sui motori diesel si compra la Tesla da 250.000 euro tutto elettrica. Domani, dico, poi domani vedremo. Allora, io riepilogo la questione che ci poniamo adesso, perché come è evidente la scoperta in termini generali che gli standard vengono verificati, i controlli alle emissioni dell'auto ex ante vengono fatti dai produttori, mentre invece negli Stati Uniti le autorità di regolazione come l'EPA fanno test su strada e non ne fanno fare i produttori, ha svelato una specie di acqua calda. Cioè l'acqua calda è che in Europa gli standard vengono decisi con negoziati tecnici in cui, insomma, il grande manifatturiero numero uno tedesco ha la voce preponderante per colpa degli altri che non sanno tutelare altrettanto bene i propri interessi, e che vanno a braccetto con le autorità di regolazione e di verifica. Abbiamo fatto il conto dei programmi di incentivo fiscale all'auto solo dal 2009 in avanti, dopo la botta del 2008. L'Italia dava poche decine di milioni all'auto verde e poi ha finito di darle. Se fate la somma dei programmi annunciati e poi attuati da Germania, Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito, ciascuno tutelando quote di produzione nazionale, la somma fa oltre 15 miliardi. Ecco, se ci aggiungete altri programmi comunque nell'ambito dell'automotive si arriva a 20 miliardi di euro. Se ci allarghiamo al totale degli incentivi fiscali programmi veri nell'ultimo decennio in Unione Europea, facciamo la somma di 300 miliardi ed è una somma anche qui nasometrica, mettendo insieme soprattutto gli incentivi per le energie alternative e così via. Ricordo 12 miliardi in Italia all'anno, 20 miliardi con Energiewende in Germania e così via. Stiamo parlando quindi di una torta nella quale i grandi gruppi produttivi leader da una parte impongono degli standard, impongono nel senso che sono forti nei negoziati in cui vengono stabiliti, hanno una forza molto rilevante nell'andare a braccetto con i regolatori, e dall'altra parte c'è una quantità di risorse pubbliche enorme, infinita. Che tutto questo non abbia conseguenze sul 50% della scelta motoristica, il diesel in generale, non solo il diesel Volkswagen, io tendenzialmente non ci credo. Poi vediamo, ovviamente, vediamo che cosa succede. Allora, per porre questa questione, non è che dietro il verde e gli incentivi c'è una colossale alleanza impropria tra giganti e regolatori. Abbiamo chiesto un confronto tra due voci portatrici tradizionalmente, diciamo, nel dibattito pubblico italiano di punti di vista diversi. Uno è Ermete Realacci, che è oggi è parlamentare del PD, ma insomma, ha impiegato una vita intera come ambientalista, è ex presidente di Lega Ambiente, è presidente della Fondazione Simbola, che dà molto da fare per la valorizzazione del verde, ma della produzione e dell'eccellenza italiana. Grazie a Ermete Realacci di essere con noi. Buongiorno. E poi, e anche in questo caso però non riesco a vedere lo schermo, ragazzi, c'è l'ingegnere Franco Battaglia collegato? Non c'è ancora, lo ricollegheremo tra un po', perché Franco Battaglia è diciamo, scienziato, portavoce di punti di vista minoritari e battaglieri, è quello cui Grillo questa settimana è stato costretto a rifondere dei danni, per così dire, paragonandosi poi a Pertini e Mandela. Ma cominciamo con Ermete Realacci. Ermete, il fatto che i controlli siano stabiliti a favore di coloro, cioè i grandi gruppi tedeschi, che non a caso all'inizio degli anni 2000 avevano idea di rallentare l'asticella progressiva della progressione del miglioramento delle emissioni, poi improvvisamente cambiano idea e accelerano verso il passaggio allo standard Euro 6, e adesso capiamo anche perché hanno accelerato perché di fronte a dover fare una produzione globalizzata e mondiale con criteri regolatori alle emissioni diverse, non hanno diversificato i motori, ci hanno fatto un device che automaticamente era in grado di aggirare i controlli laddove i livelli di emissione degli ossidi di azoto, cioè negli Stati Uniti, erano e sono ancora oggi la metà di quelli europei. Ma questa colossale alleanza di grandi gruppi e di regolatori non spiega perché il più poi di tutti questi incentivi va nelle tasche di questi gruppi. Non è un colossale aggiramento di quella trasparenza degli affari che il mondo verde ambientalista ha come bandiera da sempre, per te? Ma mi sembra che siamo all'incrocio fra due questioni. La prima, ovviamente il futuro è di chi produrrà pulito, e è un fattore competitivo enorme, quindi anche un fattore di affari, di business. Chi arriva prima batte gli altri. Io ricordo che il ritardo dell'Italia nelle marmette catalitiche consegnò quel mercato ai tedeschi. Faccio un esempio tanto agli altri, e come dicevi tu, ti citiamo del tu anche perché ho una antica stima della tua intelligenza, la Germania, che è il più grande produttore di auto d'Europa, ma la Volkswagen sappiamo che era appena diventato il più grande produttore di auto del mondo, no? Ha sempre condizionato gli standard, le scelte, anche con ministri verdi, io ricordo che quando c'era un governo SPD verdi, in ogni caso la Germania trattava, diciamo, per difendere la propria industria, no? E in questo c'è sicuramente un elemento, diciamo, negativo nel fatto che l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non avendo un coordinamento tra gli stati, no? Non ha un qualcosa di analogo all'EPA, no? Cioè una grande agenzia nazionale che ha una forte credibilità, anche se bisogna dire che anche l'EPA poi è stata attivata in questa vicenda da una onlus, da una dei ricercatori privati. Esatto, quindi diciamo, dopodiché la partita diventa molto complicata, e secondo me c'è poco da gioire. Molto complicata perché gli Stati Uniti hanno degli standard più rigidi sul fronte degli NOx, no? Che sono un inquinante pericoloso per le piogge acide, ma non pericolosissimo per la salute, no? L'Europa ha degli standard più rigidi per la CO2 e soprattutto per le polveri sottili, che sono un problema enorme per i diesel, perché i diesel sono motori che vanno bene per macchine un po' più grandi, hanno anche un'efficienza maggiore, ma facilmente si starano e producono tante polveri sottili, e le polveri sottili sono purtroppo alla base di morti, nel senso che secondo l'OMS in Europa sono decine di migliaia di persone quelle che muoiono per l'eccesso di polveri sottili nell'aria. Se in Europa lo stesso meccanismo che è stato adoperato per gli NOx negli Stati Uniti ha funzionato anche per le polveri sottili, c'è un problema sanitario molto serio, e quindi è una cosa grave, e c'è un problema enorme di reputazione che per ora colpisce la Volkswagen e la Germania, ma colpisce in realtà tutta l'Europa, perché poi sul fronte tecnologico la Germania rappresentava un po' l'Europa in alcuni campi, no? No, ma però proprio su questo, Ermete, cioè, per chi conosce produttori italiani piccoli, per esempio, ma in tutti i settori, sto dicendo nel campo dei frigoriferi, per esempio, io conosco nel campo componentistica per aspirapolveri, qui ci racconterà il nostro Nato Cifarelli cosa capita nel suo settore. Sì. Cioè l'impresa, cioè macchine agricole, in ciascuno di questi settori gli standard delle emissioni, che sono diventati uno dei mantra del drive di consumo, sono quasi sempre nei negoziati tecnici a Bruxelles, tra virgolette, la vincono i tedeschi. Il grande gruppo tedesco mondializzato riesce a far passare i suoi standard. E i controlli in ciascuno di queste robe su qual è l'efficienza dell'aspirapolvere, su il riciclo della scassa rigida interna ed esterna di un frigorifero, sono tutti fatti col criterio con cui si controllavano a carico del produttore le emissioni di ossido di azoto e di CO2 dei 2000 diesel di cui stiamo parlando. Cioè il problema non è solo Volkswagen, e c'è un problema generale in Europa. Io sono convinto che, Ermed, tu queste cose le sai. Però quei grandi gruppi sono quelli che portano centinaia di miliardi di incentivi fiscali, poi molto va nelle loro che investono, perché carità, Volkswagen investiva nella DD. Sugli incentivi fiscali bisogna ragionare ancora diverso, perché per esempio io mi sono battuto molto a suo tempo in Italia per condizionare le rottamazioni dell'auto ai modelli più efficienti, perdendo. Nel senso che poi alla fine si puntò sulla rottamazione stop, senza invece indirizzare l'industria dell'auto verso modelli più efficienti. Ma guarda, io questo lo dico anche perché il futuro è in quella direzione. Quando la Cina annuncia che dal 2017 imporrà gli standard più rigidi, poi vedremo quali sono, no? Sì. Significa che il fronte delle tecnologie più efficienti è un fronte formidabile. Allora lì è vero, i tedeschi sono più organizzati e pesano di più. L'Italia ha molto da dire, vi faccio due esempi stupidi, no? Noi siamo dei grandi produttori di giostre nel mondo, no? I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane, no? Noi battiamo i tedeschi perché i nostri giostre, oltre a essere più belle, pesano la metà e consumano la metà dell'energia. Nelle macchine agricole, tu citavi prima le macchine agricole, noi siamo leader nel mondo in alcuni segmenti delle macchine agricole, non i grandi trattori delle pianure americane, ma tanti segmenti delle macchine agricole. Di nuovo, in questo campo, noi siamo forti perché abbiamo delle macchine più flessibili, più adattabili, ma anche perché le nostre macchine agricole consumano meno energia, meno acqua e meno prodotti chimici, meno pesticidi, no? Il problema qual è? Che questo lo fanno distinto i nostri produttori, ma non c'è uno Stato, un'istituzione che li accompagna, perché se noi, sapendo questo, facessimo battaglie in Europa per innalzare l'asticella, favoriremo una cosa che noi già facciamo. I tedeschi sono più bravi. I tedeschi sono più bravi, lo so. Però io temo che questo problema Volkswagen è un po' un errore dire, vabbè, insomma, piccherà Volkswagen, ma altri ne approfitteranno. No, c'è un enorme problema. Assolutamente, piccherà, come ho detto prima, piccherà la Germania, piccherà l'Europa. Poi ricordiamoci che Volkswagen, che sicuramente l'hai detto, cioè, lo ricorda, anche un'azienda con un forte peso pubblico, lo Stato ha una grande scena in Volkswagen, ha i sindacati come consiglio di indirizzo, e la Volkswagen usa tanti prodotti italiani nelle macchine. Infatti, c'è 1,5 miliardi circa di produzioni italiane che finiscono nel macchine Volkswagen. Comunque, c'è un pezzo di io sono contento che Ermete Realacci insomma ammetta che c'è un enorme problema di cui la miccia fa esplodere la bomba del 2000 diesel e del device per truccare le emissioni se arrivava un regolatore a farlo e non al banco a carico del produttore il test. Però qui è un enorme problema che riguarda moltissimi ambiti della manifattura europea, di collusione tra chi è forte nel mercato ed è bravo a imporre i suoi standard e come fa i patti col regolatore e come becca il più a quel punto di programmi di incentivi miliardari. Su questa stessa domanda sentiamo l'opinione, dopo aver salutato e ringraziato Ermete Realacci, di Franco Battaglia dopo l'interruzione. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, compari dei conti della belva. Oscar. Mario, Renato e Carlo Alberto, che sono sempre qua, sempre collegato con noi. Allora, stiamo esaminando tra le code, tutte da verificare ancora, di questa maxi truffa Volkswagen, questa grande alleanza tra chi è il più forte a imporre gli standard tecnici nei prodotti, e l'alleanza con i regolatori europei. Come si fanno i test, si controllano quasi sempre, di solito è a carico dei produttori stessi, e a fronte di incentivi fiscali verdi che sono un pezzo fondamentale oramai di come la finanza pubblica interviene nell'economia da decenni. Stiamo parlando di centinaia di miliardi. Allora, abbiamo sentito l'opinione su questo di Ermete Realacci, sentiamo l'opinione di un grande divulgatore e anche debattore, insomma polemico, della scienza del nostro paese, cioè Franco Battaglia. Franco Battaglia insegna chimica ambientale e ingegneria all'Università di Modena e Reggio Emilia. Questa alleanza tra grandi produttori che fanno gli standard e autorità di regolazione che non li verificano se non a carico dei produttori con centinaia di miliardi del contribuente pubblico, è un problema o riguarda solo qualche eccezione truffaldina secondo Franco Battaglia? Sì, buongiorno, guardi, il problema secondo me invece è a monte. Il vero imbroglio non è il pacco che hanno fatto ora questi della Volkswagen con lo software truffaldino. Il pacco non è questo, il vero imbroglio è un altro. E l'imbroglio a monte sta in questo: ci si inventa un problema che naturalmente non esiste, dopodiché in qualche modo si ha la soluzione a quel problema, magari in modo quasi privilegiato, si impone che quella soluzione deve essere adottata da tutti gli operatori del mercato, in modo tale che tutti quelli che non sono pronti sono tagliati fuori. Esatto. E sono additati come cattivi. In realtà è chi che invece ha inventato il problema e si è creata la soluzione, quindi gente che ha avuto una soluzione alla ricerca di un problema è quella che è apparentemente vincente, fino a che appunto, come ho avuto modo di scrivere, chi di spada ferisce, eccetera eccetera. I tedeschi su tutti i campi, in particolare su tutti i campi diciamo industriali, hanno imposto una etica, che etica non è, che è l'etica ambientalista, fondata appunto su finti problemi, dalla CO2, il 20-20-20 imposto in Europa, i limiti, gli standard che non hanno alcun significato d'essere, perché non hanno alcuna valenza né ambientale né sanitaria, respira molto più NOx a Massaia davanti ai fornelli che non uno che passeggia per le città, standard che potrebbero essere anche 10 volte superiori a quelli che ci sono stati imposti. E questa volta però i tedeschi evidentemente non sono stati capaci neanche essi stessi di rispettare quegli standard, tant'è che hanno serviti di questo accrocco informatico che imbrogliava sugli standard essi stessi imposti, perché in Europa la politica verde la fanno i tedeschi, e dicevo lo fanno con gli standard di emissione delle automobili, che potrebbero essere 10 volte superiori, così che nessuno è fuori legge, e lo fanno con la CO2, hanno fa citavo il 20-20-20. Il 20-20-20 significa ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2020 del 20%. Questa riduzione di emissioni non è stata realizzata, anche se il tantam dice che lo è stato, in realtà non è stata per niente realizzata. Se uno guarda le emissioni di CO2 di 10 anni fa e di oggi sono superiori a quelle di 10 anni fa. Però cosa hanno fatto i tedeschi imponendo questo? Imponendo questo hanno detto: bene, chi emette CO2 è cattivo, noi abbiamo la soluzione per ridurre le emissioni di CO2 e sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici. Dopodiché noi li vendiamo. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno montato una gran quantità di impianti eolici e fotovoltaici nel loro paese. Tanto loro in realtà l'energia la producono con l'energia elettrica, la vera verità dei tedeschi è che producono l'energia elettrica al 50% dal carbone, poi vanno un 15% da nucleare, poi hanno un po' di idroelettrico, poi hanno il gas e poi però hanno montato tutta questa colossale quantità di inutili gigawatt eolici e fotovoltaici che non dà nulla, però è uno specchietto per le allodole, per tanti paesi che sono stati costretti a installare questi impianti. Primissimamente, i primi della classe siamo stati noi, ci siamo impegnati con 200 miliardi nei prossimi 20 anni, i greci si sono impegnati con 20 miliardi e gli spagnoli, forse gli spagnoli ancora prima dei greci. Quindi il professor Franco Battaglia, come sentite, ma ci contavo, l'ho chiamato per questo, ha una visione molto tagliente di qual è il nocciolo duro di queste politiche ambientali, politiche industriali e ambientali nel nostro paese, ecco, di cui Volkswagen costituisce un tassello, ma qui se andiamo dalla produzione di energia, ripeto, a tutti gli standard manifatturieri, questa è, credo, un pezzo fondamentale della realtà da guardare all'interno del quadro Volkswagen di quello che è successo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo D'Alecco. Matteo, è collegato? Eccoci Matteo. Scusa, mi sono qua da un'ora e mezza a aspettare. Allora, innanzitutto volevo dire, mi chiamo D'Alecco, sto ultimando un master degree in automation engineering e ho dovuto affrontare questi problemi delle emissioni sugli autoveicoli. Allora io volevo dire, ok, diamo per scontato che Volkswagen ha implementato una truffa, sì. E l'abbiamo dichiaro. Sì. Quello che si sta un po' perdendo, secondo me sta perdendo un attimo la bussola in Europa, perché invece in Europa la truffa è messa su carta, viene insegnata nelle scuole la truffa. Ti faccio l'esempio, il test che viene impiegato per certificare i consumi, le emissioni, eccetera, eccetera, dei veicoli europei, e prendete Google e cercate il test ECE15, che rappresenta il test urbano, utilizza un profilo di velocità secondo cui l'accelerazione massima è di mezzo metro al secondo quadro, il che significa 27 secondi per arrivare a 50 all'ora. Allora, noi accettiamo che le macchine che compriamo siano certificate con un metro secondo cui noi ci dobbiamo mettere 30 secondi per arrivare a 50 all'ora quando siamo al semaforo. Cioè, dà l'idea, hai usato un buon esempio, perché dà l'idea, ecco, di come stiamo, di come abbiamo accettato l'idea, abbiamo, di come si è stilata l'idea di che cosa siano i test di controllo. Ecco. E tra l'altro, ovviamente le emissioni sono, cioè, diciamo, la potenza che consuma la macchina è legata alla massa della macchina. Quindi prendiamo una Panda che pesa meno di una tonnellata, faccio un esempio, una Yaris anche, o prendiamo una BMW da 2 tonnellate, faccio due esempi per assurdo. Guarda caso, chissà come mai questo mezzo metro secondo quadro viene molto comodo a qualcuno, non voglio dire no, prima. No, è ovvio che sarà più a vantaggio chiamata. Allora, noi speriamo anche con queste telefonate e questi contributi di oggi di aprirvi un po' gli occhi e le orecchie. La questione non è i tedeschi e la Volkswagen, la questione è i tedeschi e la manifattura europea, i regolatori europei e chi indirizza flussi così rilevanti verso politiche che hanno dietro compromessi di questo tipo. E quindi è un problema che riguarda tutti e tutta l'Europa, non solo una Wolfsburg, la bassa Sassonia azionista di Volkswagen e i suoi 600.000 dipendenti nel mondo. Torniamo tra poco con un bellissimo esempio di come funzionano le relazioni industriali in Italia, una lettera della FIOM a Reggio Emilia agli imprenditori, in cui vedrete che cosa c'è scritto, perché ce lo spiega Renato Cifarelli. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia, l'Italia. punti della belva. Eccoci tornati qua in diretta in questo nostro ultimo slice, ultima fetta di questa puntata che avviene nel giorno del Festival dei Gufi, ricordiamolo sempre, grazie ai nostri amici di Graziano Visconti. Ma prima di lasciarvi, noi dobbiamo rivelarvi come funziona la relazione industriale nel nostro paese. Sapete che in questi giorni si è di nuovo arroventata la polemica perché c'è il confronto in atto tra Confindustria e sindacati su lo cambiamo il modello della relazione industriale, cioè come si fanno i contratti di produttività. Risposta del CGL: no, neanche per idea. Risposta di CISL: sì, parliamo. Risposta di Will: no, intanto fate prima i contratti scaduti, poi ne parliamo, quindi non se ne parlerà neanche questa volta. Ma nel frattempo, caro Renato, che cosa succede nella nostra Emilia? Ah, intanto non ho parlato di emissioni perché sono in chiaro conflitto di interessi facendo motori a due tempi, quindi evito qualsiasi battuta sul... No, però anche nel vostro caso, diciamo, c'è un leader tedesco uguale, si batte per imporre il suo standard. La mia battuta è che siccome il corpo umano emette CO2, io vorrei che fossero tassati gli jogger, quelli che la mattina vanno a correre, perché emettono molto più CO2 di noi e quindi un po' come i motori possiamo taxare. Adesso ho dato una nuova idea per le tasse. Esatto, qualcuno ci penserà davvero. Io farei una tessera per poter correre per strada. Ecco. Che costa qualche euro all'anno e poi gli faccio fare gli esami del sangue tutti i mesi. Guarda che il sindaco, qualche sindaco ti darà retta. Allora, Reggio Emilia. Tu sai che Reggio Emilia è la terra dei sindacalisti, perché poi tutti i segretari della FIOM vengono da Reggio Emilia. Esattamente. E quindi la FIOM cosa ha fatto? Ha avuto questa bellissima idea di mandare a 800 aziende e a tutte le associazioni una bella letterina parlando del Jobs Act, in cui dice che la scrivente organizzazione vi preannuncia che non accetterà mai un simile stravolgimento delle condizioni di lavoro e, questa è la perla, su tutti questi aspetti vi diffidiamo dal procedere con una applicazione unilaterale delle suddette discipline legali, vale a dire vi diffidiamo dall'applicare la legge. Questo è il nocciolo della questione. Ecco, ma oltre a questa diffida, ripeto, un sindacato che invita le controparti a non applicare la legge, ma nel caso in cui le controparti invece applicassero la legge, FIOM cosa fa? No, secondo me la cosa più divertente è questa. Allora, la FIOM non ha firmato gli ultimi due o tre contratti, credo, dei metalmeccanici, e quindi a chiusura della lettera lei cosa dice? Che invita le aziende a un sereno e fattivo confronto con le rappresentanze sindacali per studiare qual è l'applicazione da fare del Jobs Act. Quindi siamo in presenza di un sindacato che ha messo giù la linea durissima negli ultimi anni, dice non applicate la legge, parliamone. Cioè, in realtà creiamo una legge parallela Reggio Emiliana, questo è una specie ma di... No, probabilmente il messaggio è inseriamo le cose che sono state tolte dal Jobs Act, alcune cose che sono state inserite e quindi aggiunte o tolte dal Jobs Act all'interno dei contratti. Esatto. In un momento nel quale, peraltro, il contratto dei metalmeccanici, come sappiamo, è un contratto che sta subendo una rivisitazione, io dico sarebbe anche ora perché ormai è 8.000 pagine e assolutamente non adeguato ai tempi, una rivisitazione completa. E quindi il problema qual è? Che adesso ci sono le aziende di Reggio Emilia che si troveranno che alla prima applicazione concreta del Jobs Act per una qualsiasi cosa che sia essa metti il demansionamento che è un demansionamento oppure i controlli sul lavoro, no, ma... che è una materia incandescente, le telecamere sui controlli sul lavoro. I controlli sul lavoro poi alla fine più o meno sono sempre esistiti, no? D'accordo, ma sai che hai montata sta grande polemica adesso? Ma sì, ma perché poi c'è sempre la necessità di trovare le polemiche da fare in Italia, no? È un po' come prima sul discorso degli esami, cioè tu hai bisogno di qualcosa su cui montare la polemica così affermi la tua identità. Il problema è che alla prima applicazione cominceranno a partire una serie di cause e il vero grande problema che vedo io è che molto spesso, anche in passato, abbiamo avuto una situazione nella quale i giudici del lavoro, che sono poi competenti sulla materia, hanno una interpretazione, chiamiamola così, delle leggi che può essere in qualche caso essere verificato sì di non essere propriamente in linea le intenzioni con del legislatore no, non c'è e pro industria. Ma infatti quando vedremo quando inizierà la giurisprudenza sul Jobs Act ne vedremo di tutti i colori, secondo me, perché questo è esplicitamente la FIOM e la CGIL contano esattamente. No, allora, su secondo questo. Me su una cosa hanno ragione, ed è il grosso difetto che ha Jobs Act, è che noi in questo momento abbiamo due categorie diverse di lavoratori all'interno dell'azienda. Quindi abbiamo le persone a cui si applica tutta la parte del vecchio articolo 18, perché questa è da sempre uno dei difetti del Jobs Act, che ha ulteriormente che spezzato quella, e molto piegato. E vedrai che i magistrati diranno che la differenza di tutele è una questione inaccettabile. Secondo me questo sarà la cosa che riuscirà a scardinare tutto. Ma intanto oggi accontentiamoci se non i nostri ascoltatori, che la FIOM invita le aziende territorialmente a non rispettare le leggi e a costruirle di altri mettendole nei contratti. Questa è la realtà del nostro paese. E noi tutti, compagni dei Conti La Belva, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Carlo Alberto. Eccoci qua, Carlo Alberto che vi saluta. Ah, io ho pensato che con Mario facciamo un software per truccare la misurazione del PIL. Esatto. Siamo sui rulli, no? Ma quello l'ha già fatto Renzi. Lo sapevo che questa sarebbe stata la nostra conclusione. Continuate con Radio 24.